poi sono sceso dallo spigno, ho preso la, fatto la spesa per il fratello, poi sono risalito e mi sono scordato un pochettino. Poi ho detto, io ti accompagno a casa, perché stavo preparando la freddo, io ho detto. Ehi, KK, e oggi come mi ascolti giù a Prato Torres? Non vi metterà, troppo voce. Santiago 2, bene va. E hai lo stesso segnale su un pugno, a 7, spaccato, vabbè, poi con il nudo mi sali a 8. E vabbè, ma io sto scendo anche con 5 watt. E allora va più che bene. Va più che benissimo, come dice qualcuno, va più che benissimo. KK, Santiago 9, sì, qua oggi. E io mi segna 10 watt, dai. 10 watt, non l'ho mai toccato lì, perfetto. No, ma va bene anche la radio. KK, Antonio Bombolo. Ehi, AK, buonasera, Franco. Lo smitter dentro sta staccando. Ehi, già va bene, 9.40 sì qua dai. A me mi ascolti, sì. A voi che ti ascolto, sei a fondo scala. KK, riprendi Luca. Positivo, frate, dai, senti qua, come mi ascolti se ho fra K? 9.25 frate qua. Su fondo scala qua, sì, tra in mezzo, 3.0 gabba, frate, gabba, pita via. Positivo, dai, non ci sono problemi, dai, tutto qua, Roger, la mia baracca, avanti, Antonio Bombolino, poi passare per Pomponi e poi l'amico mio di Porto Torres, capa, vita mia, capa. Gabba, che ti arriva più forte, Franco o io, dalla Sottana di Pisa? Forse Franco più vicino. Franco batte a tutti. E vabbè, più vicino, Franco. Perché tu arrivi quasi a 7 da me, poi moduli arrivi a 7, lui arriva a 7 fisso e modula e sali su, capito? Ah, va bene. Aspetta, voglio fare un passaggio anche tu. No, va, prova. Guarda questo segnale, da questo ti devo attenuare frasi, no, non qui non viene più meno, intende? Guarda questo passaggio. Ammazza di nevaria. Prova. Adesso che è attenuato. 1, 2, 3, 4, 5, sì. Ciò si è staccato. Attaccato. Dove attaccare? 1, 2, 3, 4, 5, sì. Vai da 7, 8, 9 a... 9 modulati da 9.20 fai. Sì, già vabbè, e oggi da te? Sì, da me, allora, arrivo a Santiago 7 fisso, modulati quasi a 8, poi sei salito a 9 fisso, modulati a 9.5, 9.10, dai, capito, hai aumentato di brutto. KK, quindi va bene. E il bello è che la modulazione non è cambiata, è sempre rimasta bella, corposa, come sempre. Aspetta un attimo. Aspetta. Adesso. Sì, sì, Santiago 9 e poi modulati sali a 5 o 10. Andare, dai, adesso lo spengo, se no la ruzza in occhi. Qua sei 9.5, attaccato, 7 staccato. La mappa viene varia. È un bel forte, sei. Pompa, però me pompa. Pronta. Ciao Natalino, buonasera. Buonasera Natalino. Ebbene Natalino, la piazza d'Avemur è cantenna. Sta aspettando che nevica, così nessuno lo vede che sarà sopra il tetto. Capito, deve portare regali per Natale nel palazzo. E quindi fa, si arrampica nel palo e piazza l'antenna. Ah, così è. Ma deve salire in incognita. Eia, ma manco come vedi di su, capito, sono tutti impegnati a beccarsi, capito, si dice, ah, subito qualcuno si stava piccando nel palo, ma ah, vai, già tu vai, come minimo di corri in quel palazzo. Natali! Sparisco, evidentemente l'hanno chiamato al telefono. Signori, citofono per me, sto arrivando subito. Riprendi oggi. Becco 10? Volte il break. Sì, ha registrato il brecco. Nathalie. Ha fatto il brecco. Vabbè, ha fatto il brecco. Buonasera a tutta la ruota, Gianni il profeta a questa parte. Salutoni a tutti. Non ho fatto ascolto, ho acceso adesso. E niente, dai. Ammazza due guaria. Tu hai il profeta quando scende di te? Ah, basta, grande. Che menciola tutto, menciola. Ciao Antonio, buonasera, va bene, noi siamo attaccati. Genio, questa è l'Uranus, col microfono normale. Ok, un'immodulazione, cosa ridi hai su questo apparato? Cappa, cosa, come si dice? Sempre con la numera. Ello, non so chi c'è in ruota, boh, fate girare, dai. Ciao Gianni, perfetto, segnale 9 qua a casa, dai 5. Ciao Gianni, buonasera. Ciao Alessio e ciao Franco. Ieri ho conosciuto un ex collega, non so se qualcuno se lo ricorda, Gianni Bravo 2. Ah, usilo, a Puglia lo conosco. Amico di cosa? Non faccio il nome di quell'altro, se no guai. A Nanni tu hai già conosciuto? No vabbè, già ci vediamo ogni tanto. Ieri è saltata fuori la storia dei baracchini e cose varie. Mi ha detto che anche lui era, ha smontato tutto e ha messo tutto dentro l'armadio. E poi insomma, e niente, tutto qua. Insomma, ho fatto un po' di nomi. Mi ha detto che vi conosce tutti, dai. Franco Califu. Sì, mio G. Tu facci il virotista? No, negativo. Un bel di tempo fa, sì. Un bel di tempo fa, sì. E cappa. Io sono entrato in frequenza nel 95 e modulavo molte volte sul 5 e ti sentivo che c'era una Barbanera, a Caposanto, insomma, stavo la gente lì, Polverone. Cappa, cappa. Che ditta eri? Con che ditta eri? Ma facevi articolato? No, negativo, ho lavorato con Greenamanca, poi ho lavorato a Multinedu come camionista. Ai! Buonasera, buonasera, e allora? Mia, metti un po' più rum. E oggi me lo dici come sta arrivando a Porto Torres? Posto, spaccati. Prima come ti arrivavo? Prima, mi pare lo mattessi. Va bene, dai. Già va bene, allora. Ma cosa metti la sul parlare? Ultima scelera, enorme quell'antenna, per ultima scelera. È tutta in acciaio, tu, sotto dove attacca il tubo, è tutto in acciaio, la parte di sotto. Non sai che si arrugginisce come la manto. Cos'è la manto? Ti stavo dicendo, da che l'hai preso a Fusaro? È ultima scelta, hai preso quella con i quattro radiali. Sì. Perché su internet veniva 148 più 20 euro di spese di spedizione. Fusaro ce l'aveva 180, ma l'ha lasciata 150, quindi mi convenuto io a prenderlo. Va. Era l'ultima, non ce l'aveva. Franco, buonasera. Gente, ci siamo. Ciao Gianni, buonasera. Come vanno? Speriamo. Ciao, vado. E la tiene un casino di fatte, me lo sai. Avete parlato in 18. Avanti Gianni Opinu. Ho detto, quando l'hai piazzata la tua antenna, l'ha rinforzata dove c'ha gli innesti dei listini. Cosa ha fatto? L'hai rinforzata con un tubo magari per dare il rinforzo, gliel'hai messo? No. Il segreto, vabbè, oltre a tenere le misure bene, è non stringere, le fascette, lo sai, non devi proprio stringere le fascette. E poi gli ho lasciate bene. E quando tu stringi le fascette, la cosa si crepa e si. La vetroresina si crepa e diventa morbida e si spezza. Non devi stringere le fascette. Capito? Vabbè, io me ne sto andando, ciao a tutti. A me nella mia non gli ha fatto niente l'antenna. Eppure qua io vento ne prendo tanto, l'ultima l'altro giorno la bufera, non ha fatto nulla. Ciao ragazzi, a più tardi delle vostre gente, ciao. Ehi Angela, io ti auguro che ti rimanga sempre dritta, ma col tempo poi vedrai. Anche a me mi è durata quasi un anno senza rompersi, vabbè, ci sentiamo, buona serata. Ciao a tutti, ciao. Speriamo, se non mi compare giù quella che ha Claudio, la JP, una cosa del genere. JP. Quella lì, quella va bene come antenna. JP. Ciao genio, ciao! Sicuramente vai, adesso chiudo di leggere, vai, ciao, a dopo. Speriamo se ti parlano veloci, ciao. Ciao G, buona serata, buon tutto, ce la riascolta. Vai già. Ehi, dai. Chi sei, Franco? Scappa. Sono in radio, chi vai? Niente, dai, state a rotta a Porto Torres. Già va bene, liscio? Liscio. Già va bene. 9-10 a Muros, lì sempre liscio. 9-10, vabbè, tu c'hai una bella zona già, meglio della mia, Kappa. Vabbè, tu sei più in alto di me, io sono in un fosso. Ma mi sa che il tuo, la zona è più libera rispetto a me. Tu c'hai più palazzi davanti, quello sì, io per il mare sono più libero, ma tu? Kappa. Qua! Quando scala in questo smittero già. Già siamo vicini noi anche. Anche tu sei così, 9.25, dai, 9.30 quasi. È la buia che fai bene. Un attimo, una cortesia a Franco. Franco, mi dai una porta di segnale per cortesia? Fai un passaggio. Teste radio 1, 2, 3, Galaxy Uranus con 3 watt e mezzo. 9.30, 9.25 a picchi di 9.30. Benissimo, grazie mille. Mirando Gianni, buonasera. Arrivo buonasera. So che scende lì in campo per capire come si memorizzano le frequenze qua, e non li poco vedi. Difficile spararla, quanto è di stazionaria? Quella batteria è consumata e non memorizza le frequenze. Cattivo già, non è una batteria questa. No, il problema è proprio l'approccio alla memorizzazione delle frequenze. È l'unico manuale che ho trovato su internet in tedesco, Bacari dai. Non c'è la traduzione, non puoi tradurre. No, perché il documento, il manuale è scannerizzato e poi messo in PDF, capito? Non è un file di testo classico. È vero, me l'avevi detto, sì, ho capito, vabbè. No, perché io avevo uno similare a quello, c'aveva la batteria interna però per le memorie. Ho capito, dai, vabbè, adesso vediamo se riesco a trovare qualcosa. Ho provato anche col gemello il Sommercamp, il 789 e il Ranger, ma no, cioè, ho trovato il manuale di servizio, quello per le riparazioni, non il manuale d'uso. Va bene, dai, non voglio monopolizzare. Avanti Anthony. Antonio, siamo tornati, avanti Fra. Sì, scappa. Quello che già va bene, già, stai arrivando bene qua. Vabbè, noi siamo troppo attaccati e quindi il segnale noi te lo posso dare perfetto perché è a fondo scala. Vabbè, lì ci vedono le antenne. Stazionario come sì, buono. Pure uno. Sì, come me, sai. Neanche io ne ho. Anzi, non è nemmeno un euro, si muove appena. Sì, come quella mia. Sì, adesso provo a mettere il coso, ci vedi. E niente, poca roba c'ho. Eccomi qua, adesso sono ritornato con quello là. Scappa. Fai un passaggio, scusa Gianni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adesso è più forte il segnale. Più forte? Ma adesso con K. Sì, prima arrivavi 9.20, adesso sei 9.25 qua. Già va bene. Interessante che mi sentite. Bianco per me, a dopo. La matta deve guardare, 9.60. Che ragazzi. Ah, stamattina non è vista la chiamata. Come chiamata? A me stai dicendo? No, Franco. Ma avevo lasciato il telefono in campagna, poi ho visto la chiamata tua, non ti ho richiamato, magari pensavo che stavi riposando. No, volevo andare a prenderci un caffè stamattina, te ci chiamo Franco perché sei libero, andiamo a pigliarci un caffè. Stamattina stavo facendo delle commissioni intanto già, capito? Stavo facendo delle cosette. Ah, ecco, sempre impegnato, sì. Non lo sai. Adesso la scusa, visto che non sta lavorando, ti chiederò. ogni tanto. Avanti Antoine, e tu come va con le serate? Ma, sono fermo. Vabbè, già si troverà qualche serata da fare, no? Sto cercando qualcuno a Capodanno. capodanno, andare tu. E allora? Se, ma non vado, se mi pagano ne vado. Vabbè, ma tu cosa faresti? Se lo riduce cosa vinti e basta, non è che canti. Quello che vuoi. Canti anche. Cappa. Cappa, gatto. Stai usando? Sono impegnato questo periodo, sono impegnato. Via, questa cosa, no, seguo. Infatti non ti ho più sentito molto, eh. Capa, sono impegnato, sono, via. Capa, capa. Via. Ma tu non te l'hai messa già? No, come era l'altra e basta. No, non ne commentate più in alto, già non ne sa fare. È fatto bene. È molto più pesante però, eh. Beh, ma anche molti più di me di guadagno, c'ha 7 di me come la manco. E tu così, come si dice, e poi te non vedi bottenza, anche io con lo lineare non li fai nulla, puoi attaccare, attaccare, attaccare, non li fai niente. Ti stavo dicendo, un 2 l'avete salita, no? No, no, la salita sono Franco, io gliel'ho passata da giù e lui l'ha salita. Pigianti chissà. Ah, oh, ma in gamba quell'antenna. Ti stai dicendo regge 3000 watt. Quella già pompa già. Va bene. Interessante che funzioni bene che abbia poche stazionari. Quando l'abbiamo piantata mi sono assusato. Aveva 2 stazionari, cazzo. Però regolandola poi l'abbiamo portata 1 e 1. Manco si muove adesso. E beh, vuole regolata. E non lì c'era scritto che era per tarata e che si poteva tarare sino ai 10 metri, si poteva fare, capito? Comunque per 120 canali è tarata. E pare il bocchi, quindi già, ce l'hai per il porto, ce l'hai proprio, già va bene. C'è un piantone allucinante, io l'ho vista, c'è un piantone allucinante. In acciaio il piantone. È poco, Io ho visto alcune piazzate, bisogna i 30 anni. Sì, ce l'aveva Sandro Sattivite con l'antenna. E quanti anni di durata? Non bisogna avere ancora. Ah, dove ce l'ha? Non lo so che zona abitava. Mi pare zona San Francesco, quella zona lì. Comunque so che ce l'aveva. Un po' di anni fa ce l'aveva Sandro. E lo sai prima com'erano gli attacchi uno con l'altro dei radiali e anche degli stili centrali. A vite, come quello dei moschettoni, ce l'è presente così. Così. Ma secondo me è un'antenna che ti dura nel tempo ed è buona. Cioè la Superlem mi ha sempre parlato bene, poi regge. Se hai capo e dai potenza, quella regge un bel me. Il capo che c'è è buono, è quello grigio. L'H1000, no l'H100. Quello già regge già. E già va bene. Grazie a Franco stiamo parlando di nuovo. Prima non uscivo più di radio, nulla, tutto a fischi, mamma mia. Avanti Franco. E già, e già. Ah, poi con questa come ti arrivo la radio? Forte, sì, un bel forte. Già, e da te com'è questa radio? 1, 2, 3, 4? Potente, potente. Che radio è questa? Questa qui sicuramente è il coso, è il Cobra. Ma vatta ancora su, cazzo, adesso lo provo il Cobra che non l'ho ancora provato. Ma sai, fra che tutti gli spezzoni che abbiamo fatto non valgono una cicca. Perché i PL non la vittano. Come non la vittano? Tu non lo sai come la studio. Poi stavo facendo dei PL più corti che non abitano, in certi macchini non abitano. Già ho capito cosa dice, quelli in macchinerite. Esatto. non vogliono abitare, fra. Io li ho presi tutti in macchinetta per abitare, invece non abitano. Solo quelli, il primo che ho messo andava bene, gli altri sono tutti senza, non abitano, perché quando stavo a fischiare ho fatto la prova di cambiare anche gli spezzoni, fra. Io ne ho colti. Cosa? Poi cavolo di PL, cioè praticamente no, non abitavano bene nella calza, nelle cose, anche lì è un bel largo, con la, neanche con le 58, neanche questo qua, con l'H500, con questo che ho io, questo no, non andavano bene, ho messo quelli normali e va bene. Normali come? Quelli bianchi? Giappa. Ma che si sciugli di peraltro. Quelli bianchi che c'erano una volta erano buoni. Questi qua si rifà la saldatura e ti trattiene un po' filizzato, si scioglie la plastica e gira tutta a voi. Cara, non avevo capito, ora mi stavi dicendo. Ho detto, quegli ispettori che abbiamo fatto, te lo ricordi col capomiglio? Non va bene nemmeno uno, solo uno, quello che c'ho sotto e basta. Gli altri non abitano, non abita uno, non abita l'altro e l'altro, niente, non abita uno. Non servono a niente quei PL che c'ha Fusaro, per carità. Ti stavo mai detto che radio stavo usando? Sì. Però modificato, Eccolo, va bene, cazzo. Non metti la parola per la Dieco, vedere, poco a poco. Di? Di Checo. No, non mi piace, Dieco. No, va bene, te lo vedo essere dei... Una prova, dopo tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Si fa la radio più forte. Cosa? Si fa la radio più forte, è messa appena appena. Io lascio così, allora, così va bene. Tu hai dato com'è? Buono? Buono, buono, fra. È una radio modificata questa. Lo smitter funziona bene comunque già, perfetto. Certo che deve funzionare, c'è lui. Andava, di lusso. C'è una bella modulazione questa radio. Dalla. Ho perso proprio. Questa è una piazza in macchina adesso. Vediamo un po' con il camper. Il camper non te la fa mettere lui. E io glielo piazzo a te, sì. Ah, lui! Ti rubo anche un camper, Ghizio. Quel bicetto 50. Vai, che da voi si ferma un camper, non tutti di partire. Poi non converrà mai mettere le macchine all'idea, a me mi hanno fatto partire la centralina. Ti immagini, Gigi, da qui andare a pigliare un capo e un po' in moto. È quello, quando attacchi l'idea devi sempre lasciarlo acceso, non lo devi spegnere, se no si scarica subito. Mi ha fatto partire la centralina, io lineare da 100 watt, mi ha fatto partire la centralina da 747. No, questo è da 150, è un B150, e l'ho provato qua e va benissimo, è adeguato, capito? Perché qua posso aumentare e diminuire il watt. L'hai provato lì? Una bomba è già. E bisogna vedere se va bene con quell'antenna che hai. Cosa? Se va bene con quell'antenna che hai. Io con la nera, anche con quella va bene. Però stavo pilotando con l'amplificatore, ti ricordi, con quell'altro. Andava bene. Sì, quello sì. E poi l'antenna ce l'avevo già tarata, è uno di stazionaria, ce l'avevo. Andava, vai a tu. Capa. Forte arrivi qua, forte. Cioè sia tu che Gianni, forse tu sia appena più alto, ma po' di poco, perché magari sei più vicino. Di Gianni? Capa, magari mi risulti un po' una posizione un po' diversa, capito? Poi dipende quanto stai dando tu, quanto sta dando lui. Comunque siete un bel forte qua. Beh, io sono con 5 e qua. Ah, bravo. 9.40, sì. Allora, questo qua lo posso pilotare da 2, non far uscire, 2, 3, 4, 5, sino a 20 watt lo posso fare andare questo. Gappa, questo si è attaccato, vedi che ho ragione io che c'ha più resa, io me ne accorgo. Gianni è attaccato, sì. Sì, però a confronto a prima che andava attaccava non c'aveva da quella resa. Allora si intende che fa un po' di potenza. Cioè si sente proprio che secondo me le distribuisce meglio il watt. Beh, no, io sto scendendo basso adesso. Sto scendendo con 5 watt modulati. No, non è attaccato al amplificatore. Eppure io sto scendendo così, attaccato per fare come andare. Cioè, non con 25. Così normale. E 9,40 attaccato. Dica un bebè. Sì. Io pure così voglio attacco, ma non ne voglio attaccare, cioè che disturbo, poi è un casino. Ecco, se mi vedi corrente per giusto. Poi, cosa vuoi? Non servono a nulla, se esci bene non servono a nulla. Come di corrente, arriva a bollette altre dopo, capito? Ah, caruccia, l'arma da guerra è ruggiamo. Dobbiamo attaccare ogni tanto a fare una prova, ma se ti rutteni il viso attaccato, quando arrivi la bolletta diventi biondo. Ma quelli trasistorizzati no, fra, quelli valvolari, che le valvole devono scaldare, consumano un bel più. E da consumano anche quelli trasistorizzati, non ti preoccupare tu, che consumano anche quelli. Ma consumano meno di un aspirapolvere, le 300 volte sono sempre meno di 1000, come c'è un aspirapolvere. Ma cosa vuoi ti dico? Comunque anche quelli già consumano, già, non è che non consumano. Ebbene, il consumo ce l'ha, perché ce l'ha, ma non è che sia eccessivo. Eccessivo è quando tu metti un valvolare a 1000 watt e devono scaldare quei boccioni che c'ha dentro. Quando prima di scaldare c'è un assorbimento in partenza che è allucinato. Beh, quello sì. E che apparecchio sta utilizzando già? Il garage. Ah, va bene. E poi ne attacca anche un altro, non c'è problema. E ti faccio sentire l'altro. Ma per la candela, praticamente a consumare un po' di corrente per arrivare più forte. A cosa serve? Non serve a niente, capito? Vabbè, se sei lontanata magari ti aiuta, che ti ascoltano più bene, più forte, tutto lì. Beh, lontanata, ma devi essere in DS, fuori, non in continente, all'estero. Quello che sto dicendo, capito? Ma comunque questo qui va bene così. Io non attacco mai, attacco giù per vedere come va, e basta, per provarlo, poi stacco su. Questo c'è anche il bip di qua. Parla a me che te lo faccio io, meglio con l'apparecchio lì. E sto aspettando quella mascherina, te l'avevo detto, non è arrivata ancora. Ma il coperchio graffiato? No, picco io un po' di graffiti già, come ce l'aveva nel camion, capito? Ma quello si può stuccare e fare bene, di lusso. Sì, allora rimane così, già andava, cosa mi interessa, va. È una radio da battaglia questa. Lo fai nuovo però, è brutto quando è graffiato. Lo fai nuovo e c'è un apparecchio come si deve, se no non ti stuccato. Ehi, ma dove la trovi la tinta? Questo grigio qua è un casino trovato. Dì la Gigi Vulcano con la trovata, che lui l'ha fatto. Uai, non ho più sentito la Gigi. Nemmeno io, non è più entrato. Però lui l'ha fatto con... ha comprato una vernice e l'ha fatto uguale uguale, identico. Ehi, capa capa, ho capito. Ma no, io stavo aspettando la mascherina... quella di Zipa, capito? E gliela metto. Ma poi te la fanno la vernice, tu vai col tintometro te la fanno, non è che sia... Poi per struzzarla, se c'hai il compressore, la facciamo al compressore. E vuoi chiedere? Meno male. Oh, vabbè, già si può fare questo colore. È un grigio strano questo, grigio perla forse. È un grigio celeste, dai. Vai a qua. Vai, loro ce l'hanno da Cozzo, in via Marsiglia lì, e te la fanno, loro ti fanno tutte quante le vernici. Fabio, dove lavora Fabio? A fianco, lì vicino, c'è uno che fa le vernici, te le fa in bomboletta direttamente. Te la fa in bomboletta, io l'ho fatta per la moto, perché mi era caduta la moto e aveva graffiata per la carena, ma l'ha fatta in bomboletta. L'ho tutta cosa bella levigata, dove si levigata, e l'ho fatta io. È uscita bene. Kappa. L'hai fatta fare lì. Sì, ma te la fa con bomboletta direttamente, ti prende il numero, ti fa la vernice e poi te la inserisce nella bomboletta e te la fai a spruzzo, capito? E la miglia. Vabbè. Chiedo, e vediamo un po'. devi andare con l'apparecchio, devi andare con l'apparecchio o col coperchio, loro hanno tutti i colori, avvicinano le mazzette del colore, se ne avvicinano quella che si avvicina di più te la fa. Rieccomi, sono rientrato. Ehi, già, qui è rientrato, vai, avanti. Ehi, sono ritornato alla mia radiolina classica, il Geofix 2000. C'è molta differenza con l'altra, già. E questa è bella squillante. Bene, Meda, e Franco cosa dice? Ah, già va bene, già. Ti ascolto benissimo qua, non c'è problema. Bene, Meda, sì, l'altra l'ho messa a riposo, dai. Ho già attaccato la sua qua, lo strumentino mi dà picchi positivi. Non so se... Sì. Ehi, Chiappa, chiappa. L'altro l'hai messa a posto, l'hai aumentata di fatto già. Ehi, ho provato a girare il trimmer, ma più di 4 watt non me ne dà. Non so quale. Mi ha detto Claudio, mi ha detto che praticamente anche quella che c'ha lui, la gemella, è così, non, più di quello non tira fuori. Ma come radio io so che te ne possono si dopo fatto, infatti. Io perlomeno c'avevo il Ranger, o Ranger, come ti si chiama, e quello da manovra fatto. Che radio è? L'Intec Galaxy Uranus, fra. No, non ne dà di più già. Quella dà 4 watt, massimo 5. Si può fare una modifica, cambiare il finale e automaticamente sostituire due resistenze e un condensatore per dare più watt. E lo fai uscire con 20 watt. È un travaglio, no, lo lascio così originale. No, lo lascio così, è troppo impegnativo, dai. Bisogna modificarlo, maggiorargli la resistenza, altrimenti si brucia il finale, capito perché? E cosa? E hai più watt, senza stare a toccare l'apparecchio a rovinare. Vi siete sovrappopolati. Ma Antonello Pomponio, che fine ha fatto? Sì, la stasera. Era in frequenza da voi, boh, se n'è andato. E infatti poi non l'ho più sentito. C'era lui, c'era Claudio, è entrato dopo e poi non lo so che fine ha fatto Pomponio. E è andato a telefonare l'inchinusa. Portare un container di birra. vabbè. Antonio ci sì. Io già ci sono già. Tu Antonello sì. Scusate, mi sono sbagliato. Sai perché? Perché si sono pigliati in un vizio a rubare, diciamo così. Ma tu cosa sei? L'inghidetto, Antonio? L'inghidetto? Sì. No. Lidua? Assolutamente no. Ti mi ricordo come ti rimavi te? No. Cazzo cosa? È radio 1000, va bene, no, cosa ha visto? A meno che non faccia che cosa diceva. Ma sarà convinto, è sbagliato. No, non ho bevuto niente, no. Non sto bevendo, non ho bevuto. Ho solo detto che mi chiamano così, mi chiamano a rubare Leone, mi chiamano. Se ne pigliate il subito, chiamami sempre Antonello. Non Antonio. Antonello, vabbè. Come mi date un cognome diverso? Beh, cosa ne gioco? Vai Luca Budetti, io gioco. Beh, no, non ci riesco. Io ho detto, mi chiamo Antonio. Ci riva, e basta, ma fa culo. Allora, io ero un caccia e pesca, che non faccio il nome. Mi chiamano signor Lano. Hanno sbagliato una volta e non ho avuto il coraggio di dirle nulla, e però ben niente. E adesso mi chiamano sempre così, io quando mi chiamo signor Lano mi giro perché so che loro mi chiamano così, capito? E io di Lano non faccio nulla. Non sei tu, no? Non sei più uno, mi chiamano signor Lano, però o si sono confusi, non lo so, e poi dal giorno poi mi hanno sempre chiamato così. Sono anni che vado lì, anni che mi chiamano signor Lado, se c'è panica che non mi conosce, c'è ma lui non si chiama signor Lado, te li mai. Già lo so. Ma ne ho mani che giudizio, Antone. Vabbè. Vabbè, Antu, tutto fa brodo. Interessante che ti rispecchio da bui, se diciamo in Antonello non è niente. Avanti, Franco, si è perso già. Eccomi. Faccio un altro paio di passaggini e poi vi saluto, dai. ho sistemato quello che devo sistemare, si è a posto e niente. Bene, gli altri che sono emigrati sicuramente da qualche altra parte, vabbè dai. Cosa volevo dire? Vabbè, mi lamento. Qualcuno ha avuto a che fare con i tubi telescopici che vendono da Bricone per caso? Sì, ce l'ho io. Com'è la fattura? Cioè, i materiali, come sono già? Sono più fini di quelli d'acqua, è normale, però se tu ne prendi 8 metri e invece di alzare 8 metri lasci il tubo all'interno rimangono più forti, capito? Rimangono più forti, poi li metti qualche tirante e i tiranti lavorano e non lo fanno piegare. Kappa. No, vabbè, più che altro mi interessava, siccome li ho visti qua su internet, perché mi devo prendere un palo più lungo, perché quello che ho è veramente piccolo, sono 2,60 m. Volevo mettere un palo telescopico, se possibile, da 4 metri. Ho visto che ci sono due offerte, due articoli da Bricoman. Con i tubi sono quello grosso e da 3 cm di diametro, mentre quello interno dovrebbe essere da 2,5. Poi non so se ci sono altre misure, confermi? Io ho la misura giusta che è dell'antenna, c'entra in castro l'antenna, tutto entra giusta. Quello che ho preso io l'ho preso senza guardare le misure, la verità, però sono stato fortunato che è entrata bene l'antenna, io pensavo fosse più stretto, invece era giusto. Era giusto, poi l'ho volata e via. Dalla casa quello che non fanno è mettere i bulloni nel montato della parte di sotto, mentre l'amato faccio gli altri bulloni. Quindi cosa ho fatto? Io gli ho fatto due buchi e l'ho fatto passare nel tubo, proprio nel tubo dell'antenna, e gli ho messo due viti a soffire tanti grosse e l'ho fermato lui. Ho capito la specifica, forse non mi sono spiegato bene. Sto dicendo, il tubo che hai preso, il tubo telescopico, l'hai preso da Bricoman, giusto? Sì, da Bricoman. Lunghezza? 8 metri. 8 metri completamente esteso, giusto? Cos'è, 4 più 4? No, c'ha 3 metri. Praticamente non lo sai tutto, io ho lasciato la parte all'interno di modo che lo rinforzi, capito? Quindi risulta doppio in certe parti. Ok, adesso ti ho capito, ti sei spiegato meglio. Senti un po', a livello di prezzi come siamo? Guarda, non me lo ricordo, perché la volta che ho preso il tubo 100 metri di tiranti, poi ho preso tutto quello che mi serviva, insomma, ho preso i cassetti, tutta la roba che mi serviva, quindi il prezzo l'hanno fatto tutto un prezzo, quindi non me lo ricordo esattamente, però basta andare a guardare, non è che non ci vuole molto. Ho capito, là, più o meno, se ti ricordavi, orientativamente, 15, 20, 30, proprio non ti lamenti. Mi pare 32, una cosa del genere, veniva, più o meno, non mi ricordo esattamente però. Va bene, quindi sono tre elementi. Adesso se appena avrò l'occasione magari ci scendo. Mi serve un palo appena più lungo in funzione nel prossimo futuro di cambiare l'antenna, capito? Quindi su questo palettino non ci può stare. Certo, se c'hai un palo di televisore non va bene. Vabbè, tanto ripeto. Comunque puoi comprarmi anche i pali, non sai dove, quindi prendi il tubo d'acqua, lo prendi da Marcedo, c'hanno quei tubi d'acqua che sono nuovi, capito? Tu li inserisci uno dentro l'altro, poi li metti i bulloni esterni, ti rifà saldare da qualche fabbro, li fai fare il buco, li metti dei viti autofilettati per bloccare, dei bulloni autofilettati. Ho capito, ad un amico che insomma compra del materiale da Marcedo, più o meno vabbè, anche lì costa, se vuoi mettere, sì, vabbè, non tanto, guarda, l'antenna che dovrò mettere è molto leggera, quindi non ho necessità. necessità di un palo molto robusto. Più che altro nelle specifiche dell'antenna che stavo guardando era proprio specificato che non necessitava di un palo molto robusto, dai. E quindi ecco perché ti ho chiesto della storia di Bricomen, se erano insomma acquistabili. Un altro dettaglio, ma sono zingati per caso? Sì, sì. Ascolta, io gli altri che avevo preso non da Bricomen. Dille che faccio bianco a Gianni. Mi ricordo che c'era le conce, non so se ti ricordi che c'era uno che vendeva baracchini, eccetera, eccetera, antenne. E poi l'avevo preso lì telescopico. E mi è durato la bellezza di 13 anni quel palo. Poi l'ho cambiato perché era un po' ossidato e cose, ma non c'aveva nulla, si poteva lasciare, non era né piegato né nulla. Allora, sono stato pignolo, quando ho messo l'antenna nuova, la Game Master, ho cambiato tutto, il cavo, ho cambiato tutte le staffe, tutto quanto, capito? Eia, sì, Antonio mi ha detto che si è assentato un attimo, niente, vabbè, adesso vediamo un po', in questi giorni provo a scendere da Bricomen per vedere questo palo, dai, perché c'è tutto più o meno, se la cifra è quella, è lo stesso che si spende una Mercedes per due tubi, insomma, uno per fare il telescopico, dai. Più o meno la spesa è quella, poi loro fanno solo il lavoro di taglio, saldatura non ne fanno, per cui devono portare i tubi da una ciabatta, è un travaglio, no? Preferisco a quel punto prendere il palo già pronto da Bricome e Ciccia. Sì, quello sì, stai molto attento che siano soldati in belli, capito? Perché uno che io l'ho preso, come sono andato a stringere il bullone, il dado si è staccato perché era puntato male, stai molto attento che siano puntati in belli quando dove avvitano per bloccare, mi hai capito? Ho capito, i dadi di bloccaggio, dai, controllare le saldature. E niente, dai, più o meno, dai, mi sono orientato lì, adesso se becco un amico andiamo insieme in furgone, visto che lui ogni tanto va a prendere il materiale, magari ne approfitto e gli scrocco un passaggio e mi recupero il palo, dai. Io. Avanti, chi è? Io. Avanti. Io. Avanti. Io. Yoga. Vuol dire che non vuole entrare. Io. Genio, tu sei? Buonasera. Buonasera a tutti. No, già, ti volevo chiedere una cosa, però se il mio gioco non ti guarda, usa. Me ne sono dimenticato. Buonasera a tutti comunque, di nuovo. Buonasera. Dimmi. Ricordarmelo. Ti volevo chiedere una cosa, però se mi sono dimenticato. Comunque tu sei 995, sei liscio. Io? Sì. Sì. Io non ne ho mica lineari. E vabbè, quella pare che stai usando, quanti parte sta uscendo adesso? 10, spaccate. Ma cosa 10? Non devi fesserie, qui che l'ha già avuto i sapparecchi minuti. Io sono meno futti, 10 spaccate. Me ne aveva basta. Ho messo 10 spaccate, no, io non ho mai toccato niente, quindi. Non ti preoccupare, cosa me ne frega io di 10, 15, 20, non me ne frega niente, 10 fatti spaccati, non me ne frega niente, se avrai più ricezione tu con l'antenna adesso. 9,5 tu sei, 9,5, e se te li miccia questa cosa? No, sto dicendo, sono 10 fatti, io non tocco niente, non aumento, né diminuisco, così era e così è, non tocco niente, sempre con 10 fatti. Io ci vado a 10, da 20 a 50, con picchi, quando lo scaldava andava più forte. E io ho sempre 10 watt, tanto aumentare non serve a niente, tanto mi ascolta tutti allo stesso modo, aumentare non serve a niente. Caspita, già ti volevo dire una cosa veloce, ecco, mi sono ricordato, ma l'hai mai ascoltato Cicchi Realizza? Sì. Cerca su YouTube, Cicchi Realizza. No, mai. Ma già nel profeta sto dicendo. No, negativo, cioè. Guarda che c'hai un principio di innesco quando parli. C'è un principio di innesco sotto. Rodiendi. Non stavo per dire. Ho spostato il microfono, era troppo vicino. Stavo dicendo, già cerca Cichi Realizza su YouTube, guarda che bravo, è un ragazzo troppo bravo. E adesso ha giustato tutto, oggi. Oh, yeah. Vabbè dai, un paio di passaggi e poi vi lascio. Qua il segnale, Eugenio, è 8 a picchi 9. Io sono troppo forte. Una bombetta, avanti Antonio. Ehi, a capo, anche qua. Vabbè, io ho una posizione un po' diversa dalla tua, e tu sei aperto. Qui mi arriva un po' leggermente più basso, però mi arriva forte lo stesso. Sì, ma ripeto, i watt sono sempre quelli, sono 10 watt, non niente di normale. Magari Gianni ha cambiato il segnale come ha cambiato antenna, capito? Arto, tu come ne arrivi oggi? Io non lo so, Santa Cosetta ero, ma conta che c'è una posizione diversa. Però mi sembra che stia arrivando basso io adesso. Santiago 8 è come la, vabbè, come la antenna forse, no? No, non è basso, no. Ti sto dicendo che scendi più forte tu. Sei a 8 qua già, 8 attaccati. Ma lo sai, io dalla macchina, quando mi arrivava Claudio, quando partivo dal parcheggio del Tourist Market, dei granai, 9.5 dalla macchina. Altri tempi erano. Chi altri tempi? A tu, 2 anni fa io ho smesso di lavorare, non è che sia una vita. Capa, sicuramente adesso che hai cambiato antenna, Claudio gli arrivi più forte. Oh raga, scusate l'ingresso, dai. Io vi saluto, spengo tutto QRT e vado a prendermi una boccata d'aria, dai. Saluto Gianni, Antonio, Eugenio e gli eventuali ascoltori, dai, ci aggiorniamo al più presto. Ok, buona serata e tante cose belle, ciao ciao. Ciao Gilma, ciao Gianni, vai a arrangiarti. E riprendo io, ricordati già, Cichi Realizza è troppo forte, questa è ti ascolti, o Lido Ostia oppure Criminal. appena riascendo, magari più tardi, vediamo un po' similmente. Ok, dai, rinnovo i saluti e a Sibiri, ciao ciao. Ciao ciao, ci sentiamo, ciao già. E quindi Eugenio, ti è rimasto solo il K adesso oppure c'hai anche altri apparecchi? No, mi è rimasto solo il K. Avevo un portatile che mi hanno dato, che mi serviva, e niente, è un microfono nuovo, mai usato, l'ho fatto dalla scatola e l'ho appoggiato lì, mai usato praticamente, un evento di 4. Poi c'è il vabbè, quello del campo, andai a parte. Quindi l'hai tutti venuto, il gas, tutto quanto venuto? Sì, ho tutto quanto dato, non ho più niente. Ma neanche il galaxy urano, sono tutto fatto. Vabbè, io uno me l'avrei tenuto di scorta, può succedere magari che uno non va bene e ce l'ha. Ma non frega niente, già, guarda, io questo qua va benissimo, tanto me lo tocco, io lo accendo e prima di parlare aspetto quel quarto d'ora, 20 minuti, e poi parlo, faccio scaldare bene, c'è problema. E poi schiaccio solo il microfono, non tocco niente, e perché si dovrebbe rompere? Vengo della mia batteria, non ci va. No, non interessa. Ma fai ascolto, mi sei. Ci sono andato, ma è una baraguglia. Nemmeno a me piace, sinceramente. Dipende sempre, qua si fa un discorso, eccetera, lì che si parla solo di cose tecniche e roba del genere. A me non mi piace, no, proprio non mi piace. Io preferisco di gran lunga la 27. Non mi piace il Kevud perché è proprio un apparato bello massiccio, mi piace, ce l'ho qua, parcheggiato, lo passo il pennello, tutti. È perfetto. 140, c'hai cioè il 440. No, il 140. No, tra un po' mi prendo il 440, il mio amico. Non lo sfrutta, non lo accende mai, me lo dà per tenerlo acceso. E ma il 440 è difettoso, che già lo sai, TG. C'ha un difetto di spirito. Perché è revisionata, revisionata, va bene, poi non si sa. Tu Anto, cosa c'è? 440? Secondo te? 140? No. E non è 440. Guarda, perché è revisionato va bene, finché poi quando è non va più bene. Vuole revisionato di tanto, vuole che si ordina. Già lo so già. E invece il 140 è un carro armato, non si fa sciamo. Più là se ne trovo uno me lo piglio. Io a dire la verità di questo qua ero un po' scettico, invece adesso proprio mi sono innamorato. Mi piace proprio, mi piace proprio qua, bello averlo, il frontalino con i pulsanti e manopolo, mi piace troppo. E io già l'ho avuto. Ecco, noi devi fare piano, piano, piano, se aumenti, devi aumentare il meccanismo, devi fare piano, piano, piano, perché se no ti aumenta l'incontro. No, io a me così è regolato e così come me l'ha dato Massimo che aveva regolato coso, Claudio, è così. Io no, poi Claudio mi ha dato alcuni accorgimenti come mettere i cursori, non l'ho più toccato, sempre fermo lì, né VAT, niente, né MKG, né nulla. È fermo lì, io schiaccio e farlo e basta. Che fai bene, dai, se non lo sai usare. Se non c'è il VFO, vai il VFO, cerchi le frequenze e cose per fare ascolto. Io ne ho avuto tre di qui già addirittura. Ho capito, ma non è questione di non saperlo usare, perché lo so usare, non è questione di saperlo o non saperlo usare. La questione è che io ci vado nelle bande amatoriali, li ascolto, ma mi stufo e lo rimetto sul 10 normale. Preferisco di gran lunga la 27 e nella 27 va bene così, non lo tocco e ti dura una vita. Sì, quello sì. Anche io non è che ascoltavo sui 40 metri, ascoltavo poi su 7000 e qualcosa, e poi non è che mi entusiasmava tanto, dai, ogni tanto brillavano, non attessi lui. No, ma guarda, la 27 è la migliore, a mio avviso, e poi non sto dicendo che una è migliore dell'altra, a mio avviso io preferisco la 27, tutto qua. No, aspetta, se uno lo sa fare bene, l'abbiamo attore che conosce le lingue, c'è da divertirti e da andare all'estero, eccetera, parlare un po' con tutto il mondo. Però devi sapere anche le lingue, devi conoscere bene le lingue e cose, se no è inutile che ce l'abbi se non conosci le lingue e non sai parlare. Vabbè, l'inglese è un po' lomastico, qualche cosina per andare avanti, un dialoghino si può anche fare, però non ho fatto l'attrezzatura per salire, per andare nelle bande amatoriali come le antenne, poi sinceramente non mi interessa. Mi piace averlo qua, mi piace entrare nella 27, punto e basta. Allora, prima cosa che non è la battetti, chi su di più? No, ma non è neanche il problema della partenza, perché se mi metto a studiare io la base ce l'ho, perché ho fatto le professionali, quindi la base ce l'ho, capito? Quindi non è un problema, se mi metto a studiare e passare quello che ho studiato non è un problema, ma non me ne frega niente, ne ho anche troppe partenti, boh, vai. Che non ho mai fatto le professionali? Non c'è il montatore, riparatore, TV. Io sono un attore elettro ossia cittadinico. Ma quando c'ero io quel ramo non c'era. Sì, c'era Sassari però. Ma io parlavo a Torres, ero proprio da interfa mollato perché si è preso un'opportunità di lavoro e sono dovuto andare in Tirrenia. Vabbè, c'erano elettricisti piantisti, c'erano tornitori, c'era Radio TV, c'erano vari settori. Sì, sì, lo so. E la voglia. E prendi a tu. Gappa, ma quanto è alta già? Mi sono dimenticato di dirti, quanto è alta quella lì? Come l'ha fatto, vai? All'incirca è così. No, sono contento qua, ti hai preso quella, almeno è un prodotto che ti dura. Quella là. Lasciamo perdere. È andata male dall'inizio al tuo, ma è durato manco un anno, quella là mi si è truccata subito. La buona è già puntata e è durata, quella parte lì si è rotta un'altra parte. No, lascia perdere, lascia quella che verrà che ti dura anni e non vai problemi. Ma quell'antenna non è ferma, no, la stanno aggiustando, si stanno cambiando le parti, le stanno mettendo le parti di un'altra antenna originale, uguale identica, che praticamente aveva difetti di bobina e gli hanno dato tutte le parti. Quindi c'ha le parti originali di nuovo, solo che la paura è che si sfascino di nuovo. No, infatti, tieni di chissà che verrà che è una cosa molto seria, più seria. Non bisogna stringere, il trucco è quello, non bisogna stringere fascette. Come sta entrando in forza la lasci, no, non bisogna stringere fascette. È vetroresina, bisogna conoscere la vetroresina come lavora. Ma un conto è saper piazzare l'antenna, un conto è conoscere come funziona la vetroresina, ragazzi. Che matto è dura, se vuole solamente sa butta a vittare la fascetta. Ehi, vabbè, non è quello il problema, Eugenio, quando l'abbiamo piazzata un elemento l'hanno entrato di più, l'altro di meno, quello che è entrato di meno ha fatto più forse, si è spaccato per quello, le fascette non hanno spaccato nulla perché sono state strette in maniera giusta, non erano certo le fascette, il fatto è che si è spaccata perché l'ha messa troppo in punta, capito? Ha lavorato troppo, si è spaccata alla fine, ha ceduto, perché la vetroresina è così, mentre invece se tu vai lì a Porto Torres dove vendono i tubi, la cosa come si chiama, ma se non mi viene il nome, vai lì e ti prendi i tubi PVC, ti rubo le sombra, un tubo in PVC lungo, in modo che la tenga, tanto non gli fa nulla, la tiene solo più rigida, capito? Di modo che non si spacchi. Allora torno a quello che ti dico io, non sono state prese bene le misure, perché se tu la infili bene e tieni bene le misure, non si spacca l'antenna, fidati, si è collaudata alla grande. Cioè io qua le prendo tanto vento e tutti i venti sono i miei, l'ultima bufala che è passata, si piegava in maniera allucinante, nulla. Anche a me il primo periodo era così, si piegava, ma si rompeva, poi si è rotta. Vabbè, comunque, pazienza, già di più là. Questa è qui, adesso la stiamo aggiustando, li mettiamo i pezzi di che c'è dato uno che ci l'ha rotta la bobina, ci ha regalato i pezzi, e adesso li rimettiamo i pezzi originali della Game Master, e poi vediamo. L'è fatta a misura, è tutto quanto, la ricomponiamo. Sì, vabbè, quello si può fare, non è un problema. Però, guarda, io ce l'ho già un anno, ce l'ho già un anno, quindi penso, mi fa cadere dura. Gappa, la pace, tieniti quella già che è meglio, fidati. No, ma quella lì la tengo di scorta, non la buttano. Gappa, non la buttare no. Però quella lì te la dimenticherai tu di mettere l'altra antenna, non ti preoccupare. Quando si rompe la Game Master mi prendo la J-Pick, la J-Fox, una cosa del genere. Quella che ha Claudio. J-Pol. J-Pol, quella lì. Che è buona lo stesso. Gappa, dai, io vi devo lasciare e ci sentiamo alle prossimine. Ciao. Ciao Anto, ci sentiamo, dai. Io, guarda, se io si trattiene altri 10 minuti, poi me ne vado anch'io. Gappa, dai, sempre dopo 25 sono da te. Prova. 2-3 prova. Sì, 9-25 è passato. Gappa, già va bene, dai. Gappa, ci sentiamo, ciao. Ma ci arriva il segnale 1, ma in onca. Cosa? Arriva il segnale 1 qua a Arturio, cosa 25. Fini, dai, vai. E io quando ti arrivo, frago, l'antenna nuova. Cappa. La stessa cosa. come segnale sei lo stesso comunque, segnale sempre 9. Forza Sosso, ale ale. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao Eugenio. Ma prima che